Pump up the volume. This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. We'll be right back. Eccoci qua, siamo ancora in diretta e questa è This is not an exit. Benvenuti a tutti, ascoltatori e ascoltatrici. Siete sempre molto gentili e pazienti ad ascoltarci. Se volete 348-7649-289, 348-7649-289 per mandarci qualche messaggio. Che dice, dottor Scarpo? Sono stato bravo? Sì, vabbè, buonasera a tutti e a tutti. Sei stato bravo. Per una volta mi sono ricordato all'inizio della trasmissione di dire... Però devi mettere, vabbè, in ordine prima le ragazze, le signorine, salutare, poi i signori. Ok, posso migliorare, ma si può sempre migliorare. Comunque, quello che avete appena ascoltato in diretta era Chimes, ovvero uno dei primissimi brani provenienti dall'ambito acid house o comunque rave a andare in classifica. Questa sera sarà una puntata dedicata esclusivamente agli Orbital, che da quel mondo venivano, anche se erano, diciamo, periferici. Venivano infatti da una periferia londinese, se possiamo definire la periferia, una cittadina che sta Oakbridge a 40 km da Londra, ma comunque Big London, e si erano costruiti in casa tutte queste melodie, armonie più che altro e ritmiche, che erano riusciti a portare White Label dopo White Label. Ricordiamo, il White Label sono quei dischi senza etichetta, poi spiegheremo anche perché magari, comunque che si erano creati un piccolo culto locale, fino a che a un certo punto qualcuno riuscì a portarli a Top of the Pops, cioè una delle trasmissioni musicali, o la trasmissione musicale più importante in Inghilterra tra la fine degli anni 80 e l'inizio del 90. Ebbene, eravamo nel 1990. There is the theory of the Mobius. A twist in the fabric of space where time becomes a loop. Oh, happen again. So when we reach that point, whatever happened will happen again. So when we reach that point, whatever happened will happen again. So when we reach that point, whatever happened will happen again. Orbital questa sera su Radio Città del Capo, quindi parliamo di un qualcosa che insomma è musica, però anche un movimento, quello dei rave, appunto. E movimento che insomma fu abbastanza perseguito dalla polizia, dalle forze dell'ordine in Inghilterra. Loro venivano poi dalla cultura punk, quella forse dei Cress, no? dei posti occupati, che poi comunque si spostavano, non erano soltanto stanziali, posti occupati che potevano occupare anche degli immensi campi. Sì, era una cosa strana, era un incontro tra hippie, travelers, viaggiatori, new age travelers si facevano chiamare, e sì, anarco-cultura, anarco-punk, punk, crust punk. Eh sì, naturalmente la polizia, quando vedeva gente strana in giro, la fermava. Cioè, non vi basta occupare i posti, bisogna pure occupare i parchi della borghesia inglese, quindi dava molto fastidio sia alla gente che abitava in zona e sia naturalmente alla polizia. There is the theory of the Mobius. We'll be right back. Radio Città del Capo, 21:32 minuti, su 94.7, 96.50, appunto in modulazione di frequenza per questa radio, che stasera tira fuori un po' di Inghilterra, campagna inglese, periodo che si parla sempre di Brexit e quant'altro. Vuoi aggiungere qualcosa sul Brexit? Vabbè. No, ne hanno detto anche troppo. È vero, non si può sentire più. E allora, niente, comunque parliamo di musica inglese, poi alla fine del Brexit non ce ne può fregare di meno. Ma no, e poi abbiamo scoperto un sacco di belle cose, che per esempio i rave di cui parlavamo prima, in realtà a volte li facevano su campi sperduti di proprietà di qualcuno, ma molto spesso erano fatti nei commons, che erano le terre demaniali che ci sono anche in Italia. Spero, ma coltivate? No, abbandonate. Hai presente le marcite? Sarebbe bello andare a... I maceri erano terre che d'estate si potevano anche calpestare, ma mi sa che d'inverno in Inghilterra erano delle marcite, cioè erano terre putride. Beh sì, comunque l'Inghilterra è famosa per questi mega festival nelle campagne, no? E comunque loro naturalmente non dicevano niente a nessuno delle autorità, che dovevano piantarsi lì per qualche notte a fare i loro bei rave, quindi naturalmente... No, era un passaparola. Era un passaparola, e poi insomma passaparola che poi è arrivato anche in Italia, insomma il fenomeno. E loro comunque appunto venivano dalla scena punk, quella dei Cress appunto e quant'altro. E poi alla fine degli anni 80 i fratelli appunto Paul e Phil Hartmoll vengono fulminati dall'Acid House, dall'ondata fine anni 80 appunto, e che li convince ad approfondire l'interesse per la musica elettronica, e abbandonano un po' quindi il punk, la chitarra, insomma gli strumenti tipici di una band punk, per rivolgersi appunto ai piatti e a quant'altro, insomma tutto quello che l'armamentario può avere un DJ. Anche se comunque techno vera e propria non era, riescono anche a unire il popolo rock, che loro comunque ben conoscevano, col popolo dei rave, che insomma veniva insomma da un'altra cultura, due culture che si avvicinavano. Anche perché usavano un oggetto che poi sarebbe diventato famosissimo, che già molti compositori techno di Detroit avevano sfruttato, cioè penso alla linea di basso Roland, la 303 se non vado errato, che ben programmata distorceva e poteva ricordare le classiche distorsioni di suoni che avevano i tipici gruppi heavy metal. Thank you. Eccoci ancora qua, 21:43 minuti primi, siete in diretta su Radio Città del Capo e questi erano sempre gli Orbita che ci stanno portando in giro per le lande inglesi. Ricordiamo che vengono dall'abuso del calpestare i suoni pubblici, ma tutto era legalmente fattibile perché non esisteva in Inghilterra una legge vera e propria che proibiva i raduni in campi demaniali. Però chiaramente le proteste dei contadini, del vicinato, e poi portarono a qualcosa. Soprattutto nel 1992 ci fu un episodio chiave. Gli Spiral Tribe, che erano una crew che organizzava, oltre che produrre musica, organizzava eventi enormi con camion amplificati, e organizzò un gigantesco evento a Castlemorton, vicino alla zona dell'Avon, per andare quasi al confine col Galles, insomma una zona abbastanza sperduta, ma andò meglio, troppo bene. Tra i 5-6 mila persone erano i partecipanti medi di un rave party, quindi già tanta gente. Beh, a questo rave di Castlemorton, che era nel maggio del 1992, arrivarono qualcosa, chi dice 20.000, chi dice 40.000, ma 30.000 persone sono veramente tantissime. Ed era una cosa, probabilmente a vederlo da di fuori, quasi apocalittica, di notte, senza una vera e propria organizzazione, senza latrine, ma comunque con tantissima gente presa benissimo, che era riuscita a fare una temporary autonomous zone, si dice così, comunque un'occupazione temporanea che durò non solo un weekend, ma ben 3 giorni, poi 4, perché comunque c'era anche una festività. Questo fu la goccia letteralmente che fece traboccare il vaso. Alla fine della manifestazione la polizia arrivò, arrestò un po' dei ragazzi della crew Spiral Tribe. Ma dopo questo 1992, dopo questo episodio del 92, tutti i rave cominciarono ad andare un po' in difficoltà. La polizia faceva di tutto per intercettarli, ma non aveva un vero e proprio mezzo per contrastarli. Dico bene, dottoressa Lollini? Dici bene, Babe. Infatti con gli Orbital esploriamo appieno le atmosfere dei rave inglesi che prosperavano alla fine degli anni Ottanta. Le atmosfere erano quelle costruite dalla musica elettronica e dal punk rock. Proprio qui non si mancava di costituire una comunità politica alla stregua della politica istituzionalizzata. E cogliamo allora l'occasione per sottolineare la grande trasformazione in senso repressivo indotta dall'approvazione della legge di giustizia criminale e ordine pubblico del 94. Questo atto introdusse infatti un giudizio netto sugli stili di vita delle persone e sulla cultura alternativa, sentenziando proprio un razzismo musicale, come dicevi tu. There is the theory of the Mobius, a twist in the fabric of space where time becomes a loop, where time becomes a loop, where time becomes a loop, where time becomes a loop, where time becomes a loop. Where time comes a loop, where time comes a loop, where time comes a loop, where time comes a loop, Time becomes a loop. We'll be right back. Questa era già una fase successiva degli Orbital. Gli Orbital partirono dalla musica dei rave. Chiaro, la Roland 303 l'hanno sfruttata e l'avrebbero continuato a sfruttare parecchio. Poi gli Orbital se ne staccarono, come tanti altri gruppi, un po' perché il movimento rave andò effettivamente in difficoltà, un po' perché loro stessi si sentivano magari più compositori che DJ e cominciarono a produrre quella che sarebbe stata chiamata Intelligent Electronic Music, Intelligent Techno, cose così. O comunque musica d'ambiente, musica che si poteva sentire nelle zone chill out, ma non solo. Ma d'altronde tutto il movimento rave si stava arenando, perlomeno in Inghilterra. La legge, si cominciò a parlare della legge perché per proibire i rave, specificatamente per proibire tutti gli adunate di più 20 o più persone all'aperto con musica ripetitiva suonata, più o meno la legge diceva così. Quindi, come abbiamo detto prima, una legge che andava a colpire direttamente i rave, direttamente anche, in seconda battuta, uno stile di vita che era quello dei travelers, degli hippie e di tutti. C'è poco da fare, era anche uno sfogo del weekend andare a un rave, ci si calava, si finiva la settimana e si sfruttava al massimo quelle 48 ore di pausa dal lavoro alienante quotidiano. Ma non solo, sì, questo si provava anche a mettere in pratica quelle che Hakim Bey aveva chiamato TAZ. A un livello più generale, il rave illegale, con la sua assenza di biglietto d'ingresso e di servizi di sicurezza, è un perfetto esempio realizzato di zona autonoma temporanea, TAZ. Secondo Bey, la TAZ è una fugace anticipazione di utopia, un microcosmo del sogno anarchico di una cultura libera, il cui successo dipende dal suo carattere effimero. We'll be right back. Eccoci ancora qua, interrompiamo i nostri amici fratelli Hartnell per raccontarvi ancora un po' di cosette di quegli anni che erano gli ultimi spiccioli dei governi conservatori inglesi. Eh sì, perché dopo gli anni 80 i thatcheriani, poi subentrò il governo Major, che altro non era che la propaggine della Thatcher degli anni precedenti. Quindi insomma, come dire, dopo 10-12 anni di governo conservatore, la gente ha almeno il diritto di sballarsi nel fine settimana se lo rivendicava. Non è che fosse sto granché a livello politico, ma d'altronde questa era l'area che tirava. Ma non bastava, infatti il governo conservatore effettivamente in maniera piuttosto oltranzista arrivò veramente alla fine nel 1994 ad emettere questa legge che proibiva i rave party definitivamente, dopo averli perseguiti con la polizia come meglio poteva. Beh, tant'è che tanto fecero che poi i vari travelers, i vari raver si spostarono al di fuori dell'Inghilterra, i rave cominciarono a prendere piede in tutta Italia. Qualcuno magari si ricorda anche i dintorni di Bologna, vicino a Firenze, e poi non solo, in Francia, in Spagna, in Portogallo. Beh sì, tornando in Inghilterra, socialmente insomma fu un evento molto importante, e ricordiamo che nella fine degli anni 80 l'Inghilterra fu insomma conosciuta più per la violenza hooligana, quella insomma che del Liverpool e le morti allo stadio di Sheffield, insomma questi tifosi che facevano davvero molto male alla società non solo inglese. Sì, sembra che nei giornali scandalistici si parlasse solo di rave e di hooligans, come sì, se altri problemi non esistessero. Beh, in effetti no, però comunque si diceva che appunto nei rave molte volte capitava di vedere ex hooligan che andavano lì e con la scusa della si divertivano, quindi aveva un po' smesso di fare risse, di provocare risse, e andavano ai rave per divertirsi. Quindi quantomeno questa cosa insomma va a vantaggio dei rave, riuscivano appunto a distogliere certi ragazzotti dalla violenza becera fino a se stessa che poteva sfociarsi negli stadi.

Sono le 11 di un sabato sera del maggio 1992. Stiamo percorrendo una strada di campagna in una località imprecisata della regione occidentale dell'Inghilterra, quando il traffico, la cui intensità è anormale, per non dire sospetta, s'arresta di colpo. Qualcuno là davanti si è fermato per pisciare. Improvvisamente da quasi tutte le macchine saltano fuori i ragazzi per fare la stessa operazione. È un'immagine che non dimenticherò mai. Illuminati dalla luce di un centinaio di fari, innumerevoli archi di urina diretti verso la siepe, a perdita d'occhio. Progressivamente ci rendiamo conto di non essere soli. La nostra macchina è diventata parte di un convoglio formato da veicoli il cui numero cresce in misura quasi insopportabile, come aumenta il timore che la polizia possa impedire lo svolgimento del rave. La nostra destinazione è Castle Morton Common, non lontano dal confine con il Galles. Quest'anno sarà la sede dell'Avon Free Festival, che fa parte di quella dozzina o più o meno di festival estivi frequentati dai New Age Traveler. Il loro stile di vita nomade cominciò a diffondersi nei primi anni 70, quando carovane di hippie passavano l'estate vagabondando per il paese seguendo il circuito dei festival gratuiti. Gradualmente questi frammenti protocrasti della controcultura originaria hanno dato origine a una sorta di economia neo-medievale basata su prodotti artigianali, medicina alternativa e intrattenimento, giocolieri, acrobati, guaritori, venditori di cibo, fabbricanti di candele, venditori di vestiti, gente in grado di fare tatuaggi e piercing, gioiellieri e spacciatori di droga. L'opinione pubblica si accorse dei New Age Traveler per la prima volta a giugno 1985, per via della battaglia di Binfield, e subito li catalogò come i nuovi corruttori della pubblica morale. La polizia intercettò un convoglio che si dirigeva allo Stonehenge Free Festival, sede tradizionale per le celebrazioni del solstizio d'estate, e lo assaltò, distruggendo i loro veicoli e colpendo con manganellate indistintamente uomini e donne. L'allora ministro degli interni Douglas Hurd chiamò i Traveler briganti medievali, e il primo ministro dichiarò: «Sono più che compiaciuta di rendere la vita difficile a questi convogli di hippie». Nonostante la persecuzione delle autorità, il movimento non solo sopravvisse, ma crebbe. Quando l'occupazione abusiva di abitazioni divenne meno praticabile e il governo adottò misure restrittive nei confronti di coloro che chiedevano sussidi, molti crassi urbani, non sopportando più lo squallore della vita sedentaria, si diedero al nomadismo. Thank you. sui suoni, note dire troppo, di Halcyon, dal secondo album degli Orbital, vi salutiamo. Ricordiamo che Halcyon non fa male, no scherzo, sto scherzando, era uno psicofarmaco, è uno psicofarmaco di cui qualcuno forse ha abusato in qualche rave, o forse no. Comunque, non lo sapremo mai. Buonanotte a tutti, ringraziamo il dottor Scarpa e la dottoressa Lollini. Buonanotte. Che questa sera è stata qua con noi, e sicuramente ringraziamo voi per la pazienza di averci ascoltato anche questa sera. Beh, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 21.08, 21.10 o cose così. Buonanotte. Pump up the volume. Pump up the volume.